Il cane dalle orecchie mozze, da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Che ho fatto, o ciel, che ho fatto per meritarmi questo orrendo oltraggio? E come avrò il coraggio di comparir dimani così conciato in faccia agli altri cani? Uom, non re, terror degli animali, o se provassi questi orrendi mali? Così dicea Muflar, giovane alano, mentre il padron con la feroce mano, senza ascoltare i gridi di protesta, mozzavagli le orecchie sulla testa. Muflar credé di perdere l'onore, e invece no, che il cane a lungo andar ci guadagnò. Essendo egli una bestia litichina e stuzzichina, avria presto provato che in parecchie circostanze ad un cane prepotente è un danno troppo lunghe aver le orecchie, che troppa larga presa offrono al dente ed alle nemiche offese. Can che morde ha le orecchie in malarnese. Questa è legge di guerra, i punti deboli, arma, difendi, e il mio Muflar imita che porta anche un collare. Così guarnito e non avendo orecchie noiose da portare, se viene il lupo e tenta divorarlo, non sa dove pigliarlo. Fine della favola, il cane dalle orecchie mozze. Questa registrazione è di dominio pubblico.